con l'attore Elio De Capitani per parlare di Frankenstein, il racconto del mostro, da Frankenstein di Mary Shelley, che sarà a Roma al Teatro Brancaccino dal 28 febbraio al 3 marzo 2019. Elio, ben trovato. Eccoci qua a Roma, che piacere, Roma che fa Roma, Roma che fa Roma con il sole, come si dice, di fare questa cosa gotica e scura e notturna, però di giorno c'è il sole, quindi siamo tutti contenti. Ci parli un po' di questo progetto? Il mostro lo abbiamo sempre visto al cinema, più di 100 rappresentazioni, da quando 201 anni fa, una ragazza tra i 16 e i 19 anni lo ha scritto. È un racconto aurorale, è un racconto molto scritto veramente con un animo giovanile, ma che è diventato un mito contemporaneo. Però al cinema lo vediamo sempre oggettivamente, no? Vediamo tutta la storia. Io quello che faccio è la parte centrale, il racconto del mostro in prima persona, lui e il suo cervello, i suoi pensieri, da quando nasce, da quando prova le prime sensazioni fino al momento in cui maledirà l'umanità perché scoprirà di non essere amato, di essere respinto da tutti. Ed è una bellissima esperienza perché ho visto che è un qualcosa che si aggiunge rispetto alla solita immagine. Tra l'altro è come se io fossi lui, ma al tempo stesso lo spettatore fosse lui, perché mi ascolta è uno spettacolo molto avvolgente dal punto di vista del suono. Il pubblico è avvolto dal suono come se fosse dentro la testa del mostro, anche grazie ai microfoni che uso, è molto, molto intima la percezione. E quindi fa questo viaggio perché il mostro è un bambino dentro un corpo di un gigante che scopre prima le emozioni, le sensazioni, riesce a distinguere l'olfatto, la vista, il tatto, poi pian piano impara, tutto impara. Solo che i primi contatti con l'umanità viene respinto, bastonato, picchiato, si nasconde in una casupola e spia per un anno intero, un anno e mezzo, una famiglia, impara le parole, impara il significato delle parole, impara a ripeterle sempre meglio, poi scopre la lettura, i libri, scopre il mondo, impara tantissime cose, si innamora di libri come il Paradiso Perduto di Milton e di una donna, questa araba che arriva, e poi però quando deciderà di rivelarsi al mondo, a questa famiglia, prima al genitore cieco e poi ai giovani, i giovani quando lo vedranno avranno talmente orrore da picchiarlo e scacciarlo e lì nasce l'altro mostro, quello dell'odio, del fiele, della rabbia. Oggi è bello sentire questo racconto perché vediamo l'altro respinto, una creatura che vuole solo essere amata, essere amico, che viene respinto dall'umanità e allora vuole punirla, l'umanità vuole punirla. Non dico come finisce perché finisce un momento molto magico in cui lui chiamerà a sé il suo creatore e pretenderà per sé una seconda creazione. E su quello finisce il mio racconto in soggettiva. Poi il resto è Frankenstein come l'abbiamo sempre visto, ma questo momento di intimità, questo. A Milano ha avuto un successo incredibile. Io non l'ho fatto per caso, non volevo ripetere, era un regalo per il mio pubblico. Dopo 3 settimane di esauriti ho cominciato a chiedermelo anche altri teatri milanesi e adesso sono qui a Roma. Mi fa molto piacere. Com'era nato il progetto? Per eterogenesi, come sempre, mi avevano chiesto di che cosa volevo, perché Ferdinando Bruni fa delle bellissime, infatti la rassegna gotica continua poi con due cose di Ferdinando Bruni, uno su Edgar Allan Poe e uno su Oscar Wilde, sono due lavori che ha fatto con Francesco Froggia. Il mio teatro mi ha detto: ma tu non fai mai niente da solo, non fai qualche cosa. Questi anni io non me era mai venuto questo, però avevo da tanto tempo due doglie. Una era Dottor Jekyll e Mr. Hyde e l'altra era Frankenstein. Ho cominciato da Frankenstein. Fernando Bruni mi ha fatto questi disegni al carboncino meravigliosi, per cui abbiamo anche tutta questa narrazione visiva attorno, ma la cosa che conta è che il pubblico sta, il Brancaccino è perfetto, sono questi 100 posti amplificati in modo che siamo dentro la testa del mostro, della creatura, perché il mostro è agli occhi di chi non vuole capire che è un essere umano come noi. Una curiosità, è anche musicato? Quando l'ho creato non era musicato, ma una notte prima di ho detto: ma come? Ma qualunque racconto gotico vive di musica? Ma come ho fatto a non. E allora ho passato una notte frenetica, sono partito da una compositrice contemporanea romana, tra l'altro, che sta vicinissimo al Brancaccino, che ama questa città da morire e che mi ha insegnato ad amarla, che è Silvia Colasanti, e quindi ho già lavorato con i suoi. È una donna straordinaria, fragile di corpo, ma con la sua musica e una potenza incredibile. Sono partito da lei e poi ho fatto un viaggio nei compositori contemporanei del Novecento, soprattutto nordici. C'è questo contrasto tra questo calore incandescente di Silvia Colasanti romana e musicisti nordici, a partire da Kurtag, a partire da Schoenberg, insomma, a partire da tanti musicisti anche più recenti, Ardo Part, insomma c'è tanta musica contemporanea del Novecento, anche più recente, molto adatta a descrivere questa testa pensante e questa natura, perché poi è la natura che molto spesso è la neve, il freddo, molto le Alpi o i ghiacciai del Giura, la musica serve anche a quello, a costruire questo camminare nelle vette innevate della Svizzera, dove tra l'altro Mariscelli lo ha scritto. Quali sono secondo te gli elementi forti di questo racconto di Mariscelli? Beh, del racconto in generale, di tutto il Frankenstein, che io faccio questa esperienza anche per indurre le persone poi a leggerlo, perché sono passati 200 anni, ma è diventato il mito contemporaneo più forte, perché ha due temi sostanzialmente. Uno è quello della ibris, della scienza, no? Questa idea dell'onnipotenza, di farsi Dio, di creare nuovo la vita, no? E la seconda invece è l'eredità di questa vita che si crea, questo abbandono del padre per questa creatura, e questa seconda parte lascia poi al tema che io tratto con più evidenza, che è quello appunto della gettatezza nel mondo di questa creatura, del suo desiderio d'amore e dell'umanità che lo respinge perché è diverso, e diventa metafora di tante diversità respinte. Mm-hmm. E quindi il fascino, poi il fascino è anche dovuto al fatto che questa ragazza ogni tanto mostra di essere giovane, ci sono dei dettagli in cui veramente l'incanto della sua scoperta della vita la trasferisce a questa creatura, la sua scoperta dell'amore la trasferisce, tra l'altro si stava innamorando di Shelley, la trasferisce al mostro. Probabilmente, come tutte le ragazze, invece di sentirsi bella, si sentiva lei stessa un mostro, perché molto spesso guardandosi allo specchio le persone in età, nei teen, negli anni dell'adolescenza, non riescono a vedersi belli e pensano di essere mostruosi. Forse questo pensiero un po' l'ha abitata, anche se in realtà poi ha avuto una vita tormentata, ma anche una vita donna amata. Sarà anche altrove dopo Roma? Questo spettacolo io posso farlo soltanto una o due settimane all'anno, perché blocco tutto il mio teatro facendo questo. E quindi noi siamo impegnati, la prossima settimana io farò, per pagare questa che mi permetto romana, farò due regie in contemporanea, perché riprenderemo sia il Sognotto d'estate che l'Acrobata in due sale diverse dell'Elfo. Io provo mattina e primo pomeriggio il Sogno, intanto pomeriggio e sera l'Acrobata, e debuttiamo il 14 e il 15. Quindi la pago carissima questa vacanza romana. E subito dopo iniziamo le prove di questo meraviglioso progetto che riprendiamo dal 2006, che non lo facevamo nel 2007, che è Angels in America, questa saga scritta nel 1993 da Tony Kushner, si chiama Angels in America, a parte prima il millennio si avvicina, e parte seconda perestroica, che faremo al Festival di Napoli, e faremo due maratone. La maratona vuol dire che faremo tutte e due le parti insieme, e adesso gli spettatori non si devono spaventare, ma lo spettacolo dura 7 ore e 40, Noi l'abbiamo fatto, l'ultima volta che l'abbiamo fatto nella precedente edizione era a Madrid, hanno voluto fare una pausa di 2 ore, per cui è durato anche quasi 10 ore tutto l'insieme, ma il pubblico non voleva più andare via dal teatro, voleva che ce ne fosse ancora, perché è come fare un viaggio, a quel punto sei nell'America e viaggi insieme a questi 8 personaggi e fai una incantevole avventura. E lo riprendiamo e poi lo rifaremo in autunno. E io penso che l'anno prossimo rifarò, non nel mio teatro a Milano, ma farò a Milano Frankenstein nei buchi di programmazione fra le varie cose, e lo riprenderò, ma solo a Milano, perché è sempre una o due settimane massimo, non posso fare di più. È un dono che faccio a me e agli spettatori. Bene. Tra l'altro spesso portano anche i figli, portano, perché poi in effetti questo è il mito della modernità. Il Prometeo moderno, no? È l'inizio della scienza, è l'inizio dell'industria, è l'inizio della sperimentazione, è l'inizio della tecnica. Frankenstein rappresenta un po' il nuovo golem creato dalla modernità, Allora era l'elettricità, adesso è la genetica, però sappiamo tutti che siamo in fondo stati osservati dalla fanciulla diciannovenne che ci diceva: guardate che l'umanità sta per costruire dei mostri, questi mostri dobbiamo anche capire se sono veri mostri o sono dei pezzi di noi o sono come noi. Ci siamo in pieno, no? In Sì, questi anni. sì, sì. Allora ricordiamo l'appuntamento romano con la narrazione Frankenstein, il racconto del mostro, da Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno di Mary Shelley, a Roma al Teatro Brancaccino dal 28 febbraio al 3 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Elio De Capitani. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Ricordo a tutti che la rassegna gotica prosegue poi con Ferdinando Bruni, che farà un testo dedicato a Poe e un testo dedicato a Oscar Wilde. Qui fino a domenica ci sono io con il Frankenstein e poi passo il testimone a Bruni, a Ferdinando Bruni, mio co-direttore artistico all'Elfo di Milano. Perfetto, un abbraccio e a presto. Grazie a voi, arrivederci a tutti.